Capitolo 11. L'indomani si annunciò con una mattinata piuttosto grigia. Il sole faceva solo qualche breve apparizione e Catherine vide in questo un presagio favorevole per i suoi desideri. Si diceva che in quei primi mesi dell'anno a una bella mattinata generalmente seguiva la pioggia, mentre il tempo nuvoloso poteva migliorare con il passare della giornata. Si rivolse al signor Allen perché confermasse le sue speranze, ma il signor Allen, che non aveva con sé le sue carte meteorologiche e il barometro, dichiarò di non poter assicurare che sarebbe apparso il sole. Si rivolse alla signora Allen e l'opinione della signora Allen fu più categorica. Lei non aveva nessunissimo dubbio che sarebbe stata una splendida giornata se solo le nuvole se ne fossero andate e fosse uscito il sole. Alle 11 circa, comunque, poche gocce di pioggia alla finestra richiamarono l'attenzione già vigile di Catherine, che non poté trattenersi dall'esclamare con voce piena di sconforto: «Oh cielo, temo che pioverà!» «Mi immaginavo che sarebbe finita così», disse la signora Allen. «Oh, niente passeggiata per me oggi», sospirò Catherine. «Ma forse è una cosa da niente, forse smetterà prima delle 12». «Può darsi, mia cara, ma allora ci sarà tanto di quel fango ovunque?» «Oh, ma quello non avrebbe importanza, non mi curo mai del fango.» «No», replicò l'amica con la massima placidità, «so che non ti curi mai del fango.» Dopo una breve pausa, «Cade sempre più fitta», disse Catherine in osservazione a una finestra. «È proprio vero, se continua a piovere le strade saranno molto bagnate.» «Ci sono già 4 ombrelli aperti, non li posso soffrire gli ombrelli.» «Sì, sono oggetti sgradevoli da portare, preferirei poter sempre chiamare una carrozza.» «Oh, sembrava una mattinata così bella, ero sicura che non sarebbe piovuto.» «Beh, in effetti chiunque avrebbe pensato la stessa cosa. Ci sarà pochissima gente nella Pump Room se piove tutta la mattina. Spero che il signor Allen indosserà il soprabito quando esce.» Ma immagino che non lo indosserà, poiché farebbe di tutto pur di non uscire con il soprabito. Mi chiedo perché debba avere questa avversione per un indumento così comodo. La pioggia continuava fitta, anche se non violenta. Catherine andava a guardare l'orologio ogni 5 minuti e ogni volta che tornava alla finestra prometteva a se stessa che se avesse continuato a piovere per altri 5 minuti avrebbe rinunciato a tutta la faccenda perché non c'era più speranza. L'orologio suonò le 12 e pioveva ancora. «Non potrai andare, mia cara.» «Oh, non dispero ancora del tutto. Non abbandonerò ogni speranza fino alle 12:15. È proprio il momento della giornata in cui il tempo si rasserena e mi pare che stia già migliorando.» «Ecco. Oh, sono le 12:20. Adesso devo proprio rinunciare. Oh, se avessimo qui il tempo che c'è in Udolfo. Almeno quello toscano o del sud della Francia, la notte in cui morì il povero Saint-Aubin, un tempo così bello.» Alle 12:30, quando Catherine aveva ormai smesso di osservare il tempo ansiosamente e non poteva più aspettarsi niente da un suo miglioramento, il cielo cominciò spontaneamente a schiarirsi. Un raggio di sole la prese di sorpresa. Si guardò intorno, le nuvole si stavano diradando. Oh, e lei immediatamente tornò alla finestra per osservare e incoraggiare mentalmente la felice apparizione del sole. Dopo 10 minuti fu evidente che sarebbe stato uno splendido pomeriggio, il che giustificò l'opinione della signora Allen, la quale aveva sempre pensato che si sarebbe rasserenato. Ma se per Catherine fosse ancora il caso di aspettare gli amici, se non ci fosse stata troppa pioggia perché la signorina Tilney desiderasse avventurarsi in campagna, questo è un punto che deve rimanere in sospeso. C'era troppo fango perché la signora Allen accompagnasse il marito alla Pump Room. Egli di conseguenza uscì da solo e Catherine lo aveva appena visto scomparire in fondo alla strada quando la sua attenzione fu attratta dall'avvicinarsi delle stesse 2 carrozze aperte, occupate dalle stesse 3 persone che l'avevano tanto sorpresa alcune mattine prima. «Oh, ma guarda, Isabella, mio fratello e il signor Thorpe. Forse vengono da me. Ma io non andrò. Davvero non posso andare. Sapete, la signorina Tilney potrebbe ancora venirmi a prendere.» La signora Allen si dichiarò d'accordo. Presto John Thorpe le raggiunse e così la sua voce, anzi la voce ancora prima di lui, poiché già dalle scale cominciò a chiamare la signorina Morland, gridandole di sbrigarsi: «Presto, presto!» E spalancò la porta con violenza. «Mettetevi immediatamente il cappello, non c'è tempo da perdere. Stiamo andando a Bristol. Come va, signor Allen?» «A Bristol? Ma non è molto lontano. E comunque non posso venire con voi oggi perché sono impegnata. Aspetto degli amici da un momento all'altro. Naturalmente questa fu considerata una futile scusa e rifiutata con veemenza. La signora Allen fu interpellata perché fornisse il suo appoggio a Thorpe e anche gli altri due entrarono per offrire la propria assistenza. Mia dolcissima Catherine, ma non è meraviglioso? Faremo una gita da sogno. Devi ringraziare tuo fratello e me per questo programma. Ci è venuto in mente improvvisamente all'ora di colazione. Credo nello stesso preciso momento. Avremmo dovuto partire 2 ore fa, se non fosse stato per questa pioggia odiosa. Oh, vado in estasi al pensiero di un po' d'aria di campagna e di quiete. Molto meglio che andare alle lower rooms. Andremo direttamente a Clifton e ceneremo là. E non appena finito di cenare, se ce ne sarà il tempo, continueremo per King's Weston. Non credo che riusciremo a fare tutte queste cose, disse Morland. Tu, uccellaccio del malaugurio, gridò Thorpe. Riusciremo a fare 10 volte di più. Ah, King's Weston, certo, e anche Blaise Castle e qualsiasi altro posto che ci venga in mente, ma c'è qui tua sorella che dice che non viene. Blaise Castle? Esclamò Catherine. Che cos'è? Oh, il posto più bello dell'Inghilterra. Vale proprio la pena di percorrere 50 miglia in qualsiasi momento per vederlo. È proprio un castello? Un castello antico? Il più antico del regno? Come quelli di cui si legge nei libri? Esattamente così. Ma ci sono davvero torri e sotterranei? Oh, a dozzine. Oh, allora mi piacerebbe vederlo. Ma non posso, non posso venire. Non puoi venire, tesoro mio? Che vuoi dire? Non posso venire perché... E abbassò gli occhi, timorosa di vedere un sorriso di Isabella. Perché aspetto la signorina Tilney e suo fratello per fare una passeggiata in campagna. Avevano promesso di venire alle 12, solo che pioveva, ma ora che il tempo è bello, penso proprio che saranno qui fra poco. Oh, non certo loro, esclamò Thorpe, perché li ho visti quando abbiamo girato in Broad Street. Lui non guida forse una carrozza scoperta con cavalli sauri, chiari? Non saprei in verità. Oh, ma lo so io, l'ho visto. State parlando dell'uomo con il quale ballavate ieri sera, vero? Sì. Ebbene, l'ho visto che girava sulla strada per Lansdowne e con lui c'era una ragazza dall'aria molto elegante. Oh, davvero? Sul mio onore, l'ho riconosciuto immediatamente e mi è sembrato che avesse anche dei gran begli animali. È molto strano, ma suppongo abbiano pensato che c'era troppo fango per fare una passeggiata. E hanno fatto bene perché non ho mai visto tanto fango in vita mia. Una passeggiata, tanto varrebbe provare a volare. Non c'è stato tanto fango per tutto l'inverno, ovunque arriva la caviglia. Isabella confermò. Mia carissima Catherine, non puoi immaginare quanto fango ci sia. Su via, devi venire, non puoi rifiutarti ora. Oh, mi piacerebbe vedere il castello, ma si potrà visitare tutto? Potremo salire ogni scala e andare in ogni appartamento? Ma sì, in ogni buco, in ogni angolo. Ma se... E se fossero usciti solo per un'oretta in attesa che le strade si asciugassero e mi passassero a prendere tra poco? Oh, state tranquilla, non c'è pericolo, poiché ho sentito Tilney gridare a un uomo che passava a cavallo che andavano fino a White Rocks. Oh, allora vengo. Posso andare, signor Allen? Fai come desideri, mia cara. Allora, signor Allen, dovete convincerla a venire. Fu il grido di protesta generale. La signora Allen non rimase insensibile. Bene, mia cara, disse, e se andassi? In 2 minuti erano partiti. I sentimenti di Catherine mentre saliva in carrozza erano estremamente combattuti. Si sentiva divisa tra il dispiacere per la perdita di una grande gioia e la speranza di goderne presto un'altra in grado uguale, anche se di tipo diverso. Non poteva fare a meno di pensare che i Tilney non si erano comportati molto bene con lei, rinunciando con tanta leggerezza al loro impegno senza inviarle nessun messaggio per scusarsi. Era passata solo un'ora dal momento in cui avrebbe dovuto cominciare la loro passeggiata. E nonostante quello che aveva sentito dire circa il prodigioso accumularsi di fango durante quell'ora, da quello che lei stessa poteva osservare, non riusciva a fare a meno di pensare che avrebbero potuto camminare con ben poco danno. Sentirsi trascurata da loro era molto doloroso. D'altronde, Oh, la gioia di esplorare un edificio simile a quello di Udolpho, dato che così la sua fantasia si rappresentava a Blaise Castle. Era un tale antidoto contro il dispiacere che avrebbe potuto consolarla all'incirca di qualsiasi cosa. Passarono velocemente per Pulteney Street e attraverso Laura Place senza scambiare molte parole. Thorpe parlava al suo cavallo e i pensieri di Catherine oscillavano tra promesse mancate e archi in rovina, tra carrozze aperte, falsi impiccagioni, tra i tilni e i trabocchetti. E quando si inoltrarono per gli Ergyll Buildings, fu distolta dai suoi pensieri dal suo compagno che le chiese: «Chi è quella ragazza che vi ha guardato così severamente mentre passavamo?» «Chi? Dove?» «Sul marciapiede di destra. L'abbiamo ormai sorpassata.» Catherine si girò e vide la signorina Tilney sotto braccio al fratello che si allontanava lentamente. Vide che entrambi si giravano a guardarla. «Ferma, ferma, signor Thorpe!» gridò con impazienza. «È la signorina Tilney, è proprio lei! Come avete potuto dirmi che erano andati fuori città? Ferma, ferma, voglio scendere, andare con loro!» Ma a che serviva protestare? Thorpe si limitò a frustare il cavallo perché trottasse più veloce. I Tilney, che avevano subito rinunciato a seguirla con lo sguardo, in un attimo girarono l'angolo di Laura Place e scomparvero alla vista. E l'attimo successivo lei stessa si ritrovò lanciata a tutta velocità per la piazza del mercato. Comunque per tutta la lunghezza della strada seguente provò ancora a fermarlo. «Oh, per favore, signor Thorpe, per favore, fermatevi! Non posso continuare, non voglio! Devo tornare indietro dalla signorina Tilney!» Ma il signor Thorpe si limitava a ridere, faceva schioccare la frusta, incitava il cavallo, emetteva strani versi e continuava a correre. E Catherine, per quanto fosse irata e agitata, poiché non poteva andarsene, fu obbligata a rinunciare a insistere e a rassegnarsi. Non risparmiò tuttavia i rimproveri. «Come avete potuto ingannarmi così, signor Thorpe? Come avete potuto dirmi di averli visti salire in carrozza su per Lansdowne? Oh, non avrei voluto che succedesse una cosa del genere per tutto l'oro del mondo. Deve sembrare loro così strano, così sgarbato da parte mia, passargli anche vicino senza dire loro una parola. Non potete immaginarvi quanto sia in collera. Non mi divertirò a Clifton né in nessun altro posto. Preferirei 10.000 volte scendere adesso e tornare indietro a piedi per raggiungerli. Come avete potuto dirmi che li avevate visti in una carrozza aperta?» Thorpe si difese molto risolutamente. Dichiarò che non aveva mai visto in vita sua due uomini che si assomigliassero tanto e quasi non voleva rinunciare all'idea di aver visto proprio Tilney. Ancora una volta l'argomento fu accantonato. Ma la gita non aveva molte probabilità di essere piacevole. La disponibilità di Catherine non era più quella della volta precedente. Ascoltava di malavoglia, rispondeva appena. Blaise Castle restava il suo unico conforto. Verso quell'unico pensiero ancora riusciva a intervalli a rivolgersi con piacere, anche se piuttosto che venire giudicata male dai Tilney, avrebbe rinunciato di buon grado a tutta la gioia che le sue mura potevano offrirle. La gioia di avanzare lungo un'interminabile serie di stanze dal soffitto alto che rivelavano i resti di un mobilio magnifico, ormai abbandonato da molti anni, la gioia di doversi fermare dopo aver avanzato per stretti serpeggianti sotterranei davanti a una porta bassa, chiusa da una grata, e perfino di vedere la propria lampada, la propria unica lampada, spenta da un improvviso colpo di vento, e di restare nell'oscurità più completa. Nel frattempo continuavano il viaggio senza incontrare nessuna disavventura. Ed erano ormai in vista del borgo di Kensham quando un richiamo di Morland, che era dietro di loro, fece fermare l'amico per sapere che cosa accadesse. Gli altri allora si avvicinarono in modo da poter parlare e Morland disse: «Sarà meglio tornare indietro, Thorpe, è troppo tardi per continuare oggi. Anche tua sorella la pensa così. Abbiamo impiegato esattamente un'ora ad arrivare qui da Pulteney Street e sono poco più di 7 miglia. Suppongo che dovremo percorrere almeno altre 8, non ci riusciremo mai. Siamo partiti troppo tardi. Sarà meglio rimandare un altro giorno e tornare indietro.» «Oh, per me non fa differenza», replicò Thorpe, piuttosto irritato, e immediatamente girò il cavallo riprendendo la via del ritorno verso Bath. «Se vostro fratello non avesse quell'accidenti di bestia», disse subito dopo, «avremmo potuto farcela benissimo. Il mio cavallo avrebbe trottato fino a Clifton in un'ora, se lo si fosse lasciato fare. E io mi sono quasi rotto il braccio per trattenerlo e obbligarlo a tenere quella maledetta andatura da ronzino bolso. Molland è uno sciocco a non avere un cavallo e un calesse suoi. No, non è uno sciocco, disse Catherine vivacemente. Il fatto è che so bene che non potrebbe permetterselo. E perché non potrebbe permetterselo? Perché non possiede abbastanza denaro? E di chi è la colpa? Oh, di nessuno che io sappia. Thorpe allora disse qualcosa in quel modo chiassoso e incoerente al quale spesso ricorreva, riferendosi al fatto che è un accidente di situazione essere in miseria. E che se certe cose non se le può permettere la gente che sguazza nel denaro, allora lui non sapeva proprio chi potesse farlo. Catherine non tentò neppure di capire cosa l'altro stesse dicendo. Delusa in quella che doveva essere la sua consolazione per la prima delusione, era ora sempre meno disponibile, sia a essere cortese che a trovare simpatico il suo compagno. Così ritornarono a Pulteney Street, senza che avesse pronunciato 20 parole. Quando entrò in casa, il valletto le disse che un signore e una signora erano venuti a cercarla pochi minuti dopo la sua partenza, che quando egli li aveva informati che era uscita con il signor Thorpe, la signora aveva chiesto se era stato lasciato nessun messaggio per lei. E ricevuto una risposta negativa, aveva cercato un biglietto da visita, ma poi aveva detto di non averne con sé e se n'era andata. Meditando su queste dolorose notizie, Catherine salì lentamente le scale. Sul pianerottolo incontrò il signor Allen che, sentendo il motivo del loro rapido ritorno, disse: «Sono contento che vostro fratello abbia avuto tanto buon senso. Sono contento che siate tornati indietro. Era un programma strano e assurdo». Passarono la serata tutti insieme dai Thorpe. Catherine era inquieta e depressa, ma sembrava che Isabella trovasse la posta di una partita di commerce, alla cui sorte era interessata in quanto compagna di gioco di Molland, un ottimo equivalente della quiete e dell'aria di campagna della quale avrebbe potuto godere in una locanda a Clifton. Lei espresse anche più di una volta la propria soddisfazione di non trovarsi alle Lower Rooms. Come compiango le povere creature che ci stanno andando. Come sono contenta di non essere tra di loro. Mi chiedo se sarà un vero e proprio ballo. Non hanno ancora cominciato a danzare. Non vorrei trovarmi là per tutto l'oro del mondo. È una cosa talmente deliziosa, avere ogni tanto una serata tutta per sé. Non credo che sarà un gran ballo. So che i Mitchell non ci vanno. Certamente chi è là è solo da compiangere, ma credo, signor Morland, che voi moriate dalla voglia di andarci, non è vero? Sono certa che è così. Ebbene, vi prego, non permettete che nessuno di noi vi sia d'impedimento. Direi proprio che sapremo cavarcela benissimo senza di voi. Ma voi uomini, vi credete talmente importanti? Catherine avrebbe potuto quasi accusare Isabella di mancare di affettuosa comprensione verso di lei e verso le sue pene, tanto poco sembrava curarsi di queste ultime e tanto inadeguato era il conforto che sapeva offrire all'amica. «Non essere così imbronciata, tesoro mio!» le bisbigliò. «Mi spezzi il cuore! Certo è stata una cosa terribilmente scioccante, ma la colpa è tutta dei Tilney. Perché non sono stati più puntuali? C'era fango, è vero, ma che importanza aveva? Sono sicuro che John e io non ci avremmo nemmeno fatto caso. Quando si tratta di un amico non c'è niente che mi possa fermare. Ah, io sono fatta così! E John è tale e quale a me, nutre dei sentimenti terribilmente tenaci. Santo cielo, che mano stupenda hai avuto! Si tratta proprio di re! Oh, non sono mai stata tanto felice in vita mia. Preferisco mille volte che l'abbia avuta tu piuttosto che io. E ora devo lasciare la mia eroina alla notte insonne, che fa parte del destino di ogni autentica eroina, a un cuscino irto di spine bagnato di lacrime. Potrà considerarsi fortunata se riuscirà ad avere un'altra notte di riposo durante i prossimi 3 mesi.